Sotto effetto sclero, milady, fatti vedere quando non hai più bisogno di lui per i soldi, eh? Sotto effetto sclero, rappando per davvero, sta roba prende che è tua, l'effetto della dopa non ucciderà. Sotto effetto sclero, picchi in testa per davvero, stavolta per davvero non puoi dire che è tua. Rappo per chi fa rap ed è nei guai fra. Sotto effetto sclero, 90 gradi, non solo d'Eros, sboccandone metà, per chi sta male sul serio. Sotto effetto sclero, questa roba tossica medica, sembra il siero delle verità, che stavolta mentiamo del dolore, il mondo lo si rivendica. Sotto effetto sclero, del tuo seno corroso, per sapere se sei madre o sei solo acidità. Sotto effetto sclero, del tuo sapore invero, per sapere se ti condiscono con la soda caustica. Sotto effetto sclero, rapinatore delle nostre identità. Non dimentico, forse perdono, ma il grano non cade dall'aldilà. Sotto effetto sclero, quando la coca per davvero, tagliata con qualche veleno da topo, causa la mia penna. Sotto effetto sclero che scuote le fronde, forse domani verrà la luna tra gli alberi che mi sognerà. Sotto mille coltelli, sotto mille diamanti che scrivo, il mio nemico poi ti rapirà, ma morirà. Sotto mille coltelli, sotto mille diamanti che scrivo, il mio nemico poi ti rapirà. Menzogna, menzogna, tu eri mia, menzogna. Mondo fumo digitale ha chiuso. Sapete perché? Perché c'è gente che è peggio delle puttane, non fa altro che sparlare, eh? Ciao.